domanda, la paura. Certe volte paura, sarà la solitudine, un po' la depressione, un po' di scazzi per il cervello, ma io mi sfogo così, mi sfogo scrivendo, o al massimo a bere, mi sorrido fingendo, dicendo che va tutto bene, non ti parlo di me, e di quello che mi succede, non mi confesso né al GF, e neanche da un prete, già, ti sono mai capitati tutti sti fatti strani, che ti tremano le ginocchia, ti prudono le mani, discorsi anormali, sei un pazzo tra i normali, e non parlo di chi vi incontro, ma problemi personali, stati calmo zio, prima o poi passerà, trema la penna in mano, ma la voglia di scrivere sta, fammi una siga dietro un'altra e nulla ti calmerà, chiudi gli occhi pensando di svegliarti in un'altra realtà, una realtà dove sta chi realmente ti ferma, senza la paura di risvegliarti in questa merda, senza la paura di essere solamente una perla tra le mani di chi non se ne fa niente la getta. Ma va, qui non va, tutto come dovrebbe, si sa come si fa e da soli si cresce, qua non è come città, quindi qualcuno ci riesce, non va dalla paura e sta merda se ne esce. Ma va, qui non va, tutto come dovrebbe, si sa come si fa e da soli si cresce, qua non è come città, quindi qualcuno ci riesce, non va dalla paura e sta merda se ne esce. Di negativo, forse son solo momenti, per adesso quest'ora dire non ho altri argomenti, sarò depressivo, ma son solo i miei sentimenti, non mi dire che sto bene, facciamo a cambio se te la senti. Senti, non mi vedo più, manca lo specchio, non mangio da parecchio, dimagrisco a vista d'occhio, non mi sto rabbia, odio e sto rotto come un coccio, forse solo chi da lassù m'hanno preso sott'occhio, una sfida con me stesso se non l'avrei fatta finita, perché nessuno avrebbe continuato sta vita, vedo una pubblicità, tutte finte mosse, la tua vita ti sorride, beh a me fa le smorfie, levanta la paura, non c'è cura sicura, con questa andatura, sembro morto in sepoltura, allaccia la cintura, ti porto nel mio mondo, non è quello che credi, ne rimarrai sconvolto, ma va, qui non va, tutto come dovrebbe, si sa come si fa, e da soli si cresce, qua non è come città, quindi qualcuno ci riesce, levanta la paura e sta merda se ne esce, ma va, qui non va, tutto come dovrebbe, si sa come si fa, e da soli si cresce, qua non è come città, abbastanza per farli crepare tutti quanti, passo più ore a casa che fuori a sfogarmi, la mia vita solitaria è pari a quella di leopardi, la paura è quella di restare solo, in fondo è quello che trasforma in un bambino un uomo, ogni figlio di puttana va avanti andando indietro, ci sentiamo chiusi e stretti come in una campana di vetro, problemi su problemi, saltano schemi dei sistemi, non ti freni ma sistemi incrociando verso i paralleli, hey, ci sarà una soluzione, ogni testo che libera come un defibrillatore, mi mantengo, mi contengo, do fuoco ad ogni sfida, ogni rima è fuoco da nafta, la conservo in naftalina, la mia vita declina e nulla posso fare, ma mai e poi mai ti darò un'aquila di volare, ma va, qui non va, tutto come dovrebbe, si sa come si fa e da soli si cresce, qua non è come città, quindi qualcuno ci riesce, non va dalla paura e sta merda se ne esce, ma va, qui non va, tutto come dovrebbe, si sa come si fa e da soli si cresce, qua non è come città, quindi qualcuno ci riesce, non va dalla paura e sta merda se ne esce.